insegnato cucinando io, caro Gianni, mi sono fatto il ragù per fare il marulletto al ragù. E poi mi ho fatto un'andata di coso, mi ho fatto anche il sugo per fare le, come si chiama, le fettine di capocollo alla pizzaiola mi sono fatto. Bene, bene. Anche io ti sono avviato, mi devo mettere solo la parte in basso. E anche io. Adesso come bolle. Dico li marrulli a intru. Sai che mi hai dato un'idea? Di cosa, Marco? Siccome mamma vuole sempre pasta in rosso, no? Col sugo. Se ho i malloreddus come penso che sia, dovrei avere anche il ragù alla salsiccia, le faccio quelli le piacciono. Gianni, ho visto, caspita, allora sì, lo Smitter è serio. Purtroppo io ho il baracchino che adesso arrivi tipo 9.20, però sai in realtà, cioè avendo il fondo scala 9.30, è proporzionato, capito? Infatti io rimpiango solo lo Smitter di quel tipo di apparato K. Vabbè, spero mi abbia copiato. Vabbè, c'è gente Gianni e quindi devo, sta cucinando anche lui eccetera. Sì, Smitter serissimo, dai. Se non ce li hai, ce li ho io un pacco di marulletto. E poi se ti porti un contenitore ti do il ragù appena fatto, che ce l'ho. E non devi cucinare un cavolo. Ti fa una scappata qua e te lo dormi. Se non ce li hai. Natalie, vabbè, non c'ho la moto dentro, sono in pigiama, come dire, non mi sono preparato niente. E poi non. Casomai già ci abbiamo altra pasta, dai. Però come ho ricevuto il pensiero? Adesso guardo se ce li ho comunque, dai. Se non ce li hai, ti fai una scappata qua, tanto tu cucini più tardi. Io l'ho fatto per tutta la settimana il ragù, quindi ne ho. Se tu ti porti un contenitore, te lo do sia il ragù che il pacco dei marulletti, che ne avevo mi due guarda, pacchi, e quindi non c'è problema, almeno tua madre mangia qualcosa di diverso, dai, oggi che è domenica, è di lusso. Adesso guardo se ce li ho, dai, ma spero di averli. Se non dovessi averli, fa come ti ho detto io, senza nessun problema. Oggi, guarda, se proprio devo uscire, mi sarebbe piaciuto andare in campagna per finire di tarare quella cosa che sei tu. Comunque, Natalie, gli ho messo il red dot, è tipo canocchialetto, anzi, allego foto. Red dot, è molto più facile mirare con quello, molto. Non ha ingrandimento, è uno per. Però sono riuscito a fare come volevo io. Tu fai vari tiri, quello metti in morsa, no? Mirando dove miravi tu, e poi li regoli il mirino dove è andato il colpo, dove sono andati i vari colpi, capito? Da quando è bello fermo però tutto l'ambaradan. E dovrei riuscire a completare, che poi mi. È lungo il discorso, mi stanno arrivando dei pezzi e quindi dovrò ritararlo da capo, capito? Tu devi provare il vero olografico che c'ha l'ingrandimento. Io ho sparato con un M4, sarebbe un M16 più corto, capito? 5,56, 223 Remington praticamente. 5 colpi ho sparato, 5 colpi tutti dentro. Sì, sì, lo conosco bene. Quello. Quelli sono. La pallotta è leggera, la traiettoria è bella tesa, capito? Molto molto tesa. batteria. E poi ho tiro bersaglio, va bene tutto, tiro bersaglio va bene tutto, cioè non ho pretese di penetrazione o balle varie, capito? C'ho ancora, vedi la voce, ma la sento afona. Ma gira, mi compro una di quelle carabine come quella che c'avevo prima io, cazzo, l'aria compressa, così posso fare del tiro a segno anche io. Ascolta, ho tentato di fare in vano una foto a red dot, no? Quello che vedi attraverso lo strumento ottico lì, però non lo vedi come l'occhio umano, è tutto sfumato. Cioè, è fatto per l'occhio umano quello, non so perché con il cellulare non viene. Vedi questi puntini mezzi storti, luminosi ma mezzi storti, boh. Gianni, sei ancora? Sei falando? No, ma se non mi rilanciate io non parlo, Ma tu devi premere lo stesso, devi parlare assieme, in sovraondulazione, che ci parliamo uno sull'altro, così è bello. Ehi, Marco, l'hai visto il video che ti ho mandato? Sì, ho visto, adesso capisco già. Giustamente io, avendo il fondoscala al più 30, i miei segnali sono proporzionati, magari ecco perché tu arrivi magari tipo 9:20 o quant'è, non ho guardato e io così. Infatti io di quella radio lì rimpiango solo lo smitter. No, è tutta bella, se la sai usare già è bella. Ehi, ma aspetta, allora, quello che diciamo, che rimpiango lo smitter, però una cosa che non posso perdonare a una radio del genere, l'assenza dello squelcin AM, quella non gliel'ho perdonata. Non c'entra che abbia l'attenuatore, però mi dispiace, forse l'ho data proprio per quello. Il rumore io praticamente di sottofondo li ho eliminati con una colonnina che ha praticamente i filtri e esce limpido limpido. Ma col DSP praticamente, con il DSP? È una colonnina dell'Alami, quella normalissima, cioè c'ha dei filtri e praticamente toglie i rumori. E gli corregge il tono praticamente, sì. Dovrebbe essere simile a quella che ho io, che poi non ho più usato perché... Vabbè, il baracchino c'ha l'altoparlante suo, quindi esterna non... Io con la colonnina esterna, sai per cosa l'avevo presa? Proprio per quell'apparato come il tuo. Perché se ti ricordi il suo originale era, suonava gracchiante, suonava proprio male, probabilmente era partita la membrana, cappa. Ma non lo so, io quando ce l'avevo andava bene. Poi anche quando l'avevamo provato qua si notava quel suono, no da te l'avevamo provato, si notava il suono gracchiante e l'altoparlante sicuramente era, sai lo fa l'umidità, tante cose lo fanno. Ah, eccola qua, noise filter, sì. È una cosa che c'ho anche su quell'altra, però francamente mi fa i toni cupi, mi fa i toni più bassi e non, per quello non l'ho usata, poi non ho necessità, capito? Ma è utile perché questo apparato è rumoroso, se tu non hai quella colonnina senti i rumori, invece con il filtro non è sempre che è rumorosa, di solito lo fa certe volte è limpida. Si sente? Si sente la voce di mamma? Ha voglia? Aspetta. Il mic è 10 adesso, aspetta, lo abbasso. Ok. Anzi, ti dirò, essendo in città, lo posso abbassare anche a 6 il microfono, ecco qua. Prima era 7, adesso lo metto a 6. Tanto non devo fare sordo a nessuno. Guarda, a me l'amplificato da tavolo va bene, che mi dia, che ne so, 30 cm di distanza, che mi dia la stessa modulazione che mi dà il mic da palmo vicino alla bocca. Una volta che quel requisito è soddisfatto, a me va bene. Cava, è Natalina. Marco. dichiarato a 5 addirittura già. A 5 l'ho messo. Me ne accorgo dalla banda laterale, dai picchi della banda laterale, no? Prima era troppo alto, non è... così è come fosse un mic normale a questa distanza. Distanza 30 cm dovrebbe risultare come quello da palmo vicino alla bocca, K. Sì, è chiara la voce, chiarissima. Sei tu come se fossi di persona. Sì, il tono l'ho messo a 3. Non vi ho detto niente prima, cioè Natalino glielo ho detto. Da 4 l'ho portato a 3 per avere un po' di modulazione un po' più calda. Che ho la voce tipo Topo Gigio. Il bello di quei microfoni è che danno la voce praticamente fedele, fedele come microfono. Eia, ho visto che negli Stati Uniti c'era, vabbè, questo radioamatore che stava, è un rivenditore, che stava vendendo l'MB più 5 ai suoi accoliti, no, chi si comprava il 6009, il 7009, il 9009, oppure il nuovo 3009, quello nuovo con gli SMD, no? E stavano vendendo gli MB più 5. Almeno una modulazione più neutra, un po' più neutra, anziché gli Astatic che sono tutti acuti, eccetera eccetera, dai. MB più 4, Bighele. Eia, anche il più 4 va bene. Ah, ho notato che su certi baracchini, tipo i President, devo mettere il tono a 0 addirittura, perché altrimenti è troppo troppo acuta. Se avessi avuto il più 4 o Natalino, non avrei potuto correggere il tono, sarebbe stata acuta. Perché io dico, guarda, più semplice, anche a me piaceva il più 4, perché era, ma sai perché era più pulito? Perché non ha questo smitter che è inutile, perché qua per salire, qua, ora, per salire ti devi attaccare così, e non serve a niente. E poi ha solo il volume, è capace, può darsi che un più 4 me lo prenda pure, per tenerlo usi futuri. Ma te lo fanno pagare una barca di soldi adesso, Marcolì. Sempre che ne trovi qua, se non è che te lo fai arrivare da fuori. Da fuori. Se sia, chiedo anche confezione sigillata, se me la mandano. Con quegli adesivi di fabbrica trasparenti tondimi. No, perché qua è capitato, ti ricordi, Fusaro lo vendeva, poi lo riportavano, magari con lo spinotto saldato tutto male, poi lo rivendevano, poi glielo riportavano, cioè la roba deve essere nuova, no che te lo riportano, te lo rivendi, te lo riportano, te lo rivendi, no, non esiste, magari l'hanno pure toccato dentro, cosa ne so io? Quello con le bolle, mi, quello famoso che aveva le bolle sulla placca di alluminio. Quello l'avevo preso io. Tu l'avevi preso Gianni alla fine, però alla fine che avevi trovato le saldature a cacchio di cane sullo spinotto. Insomma, credo l'avesse preso Pomponio, l'aveva comprato lui, poi l'aveva preso mi pare quel ragazzino che è fuggito dalla 27. E poi tu, non so se è passato in 3 mani o in 4. Però Pomponio dice che le saldature a cacchio di cane non le aveva fatte lui. Dice. Ma io l'ho preso non per me ma per un'altra persona, capito? L'ho pagato meno, me l'ha fatto pagare di meno, me l'ha fatto pagare 40 euro, io l'ho fatto per fare una cortesia a una persona, capito? Tu questa persona l'ha usata, fatto, con le saldature che c'era che andava bene. Eia, sì ma per dire almeno però l'hai pagato meno. Non che te lo restituiscono toccato e poi lo rivendono, cioè il negozio lo deve vendere nuovo, oppure scontarlo molto se è parzialmente usato. Quello era lo fesserie, Marco, sinceramente parlando, quella bolla io l'ho staccato l'affare, ho staccato l'adesivo, gli ho passato una penna, l'ho rifatto riattaccare bene e poi l'ho chiuso, l'ho fatto il gioco. Non ci aveva più nulla, bisogna pentarsi e fare le cose. E vabbè, tu mi dirai, era nuovo, doveva essere nuovo, vabbè, ma non ci voleva nulla, erano fessini. Molti scene. Natalino? Natalino è facendo cosa? Picchialo forte! Ehi, io sono cosa raffreddata, così che la mia voce oggi è bassa. Si sente Concetta, dai, già passa. Io l'altro ieri invece sono stato poco bene, sintomi un po' strani, sembrava tipo infreddatura, però allo stesso tempo avevo nausea e malessere generale. Per fortuna è passato. Ai, mamma mia, scusate, mi sta chiamando mamma, riprendi già. L'ho sentita che ti sta chiamando. Vabbè Marco, pazienza ci vuole, dai. Natalino in cucina. Il cuoco sta facendo? Sì, perché io non sto tanto bene. Cosa c'è con te? Una bella influenza, un bel raffreddore per l'esattezza. A te non c'hanno che non ti pizzicheggia? Cosa? Che non passano, che non ti prenda il raffreddore. Ce l'ho, sto pigliando la tachipirina e riservandomi a casa. Fai bene, dai. Speriamo che non lo contagi anche a Natalino adesso, non fate l'amore se non lo contagi. No, solo odio, niente amore. Solo odio. Ma dai. Tachipirina e vigile attesa. Io le ho consigliate di non far l'amore, se no poi lo contagio anche a Natalino. Feia. Oh, c'è un silenzio già adesso rispetto a prima. Che strano, tutta la mattina la propagazione, anzi chissà cosa mi sono perso io, perché io sono entrato tardi in radio, sono entrato alle 11:30 penso. Vabbè, sono entrato io, hai fatto lo yoga. Eia, aspetta, uno sai con cosa stavamo durando addirittura, credo che avesse detto uno dei tanti, che era un FM500S con amplificato, forse un inerettino, forse, che io ricordi, ma roba piccola, tipo il 737 mi pare abbia detto, quindi inferiore al 747, sarà quello da 50 watt anziché 100. Io l'ho avuto anche da 30 in macchina, con quello da 30 ho fatto dal quadrato un DX con Inghilterra e c'ho anche la QSL. Sì, sì, la propagazione, ti ho detto, tu ci metti i tuoi watt e la propagazione fa il resto, fa la magia, cacca, cavolo, cioè. Sto leggendo qua, Sasa minacciava e passati con un coltello fermato un uomo. Ah, quello via Brigata Sassari dintorni, e ogni tanto c'è qualche scoppiato che scoppia. Piuttosto la cavalcata quand'è? Il 4 avevano detto. Dovrebbe essere il 4, sarà domenica presumo, vediamo. E quindi sabato notte ci sarà tutta la Sardegna, tutto, di tutto, Benito Urgu, tutti i gruppi folcloristici, comici, cantanti dalla Sardegna. Vediamo, 4. No, il 4 è giovedì, cosa sto dicendo, scusate, no, 4 è domenica. Non maledicendi Marco. Vabbè, comunque è quel periodo lì, sì. Vabbè, io non so manco se ci vado, perché a me tutta questa gente, io dirò a Porto Torre, se guarda c'era una marea di persone, non c'era posto da camminare Marco, ma migliaia di persone. Sì, ma infatti già, quando trovi quel casino che non trovi parcheggio o devi rischiare la multa, magari per mettere la macchina sul marciapiede, o che la devi mettere fuori dal paese e poi farti chilometri a piedi, allora no, io dico no. Quando c'è troppa bolgia, troppa calca, e poi ricordati che il Covid non è passato del tutto. Quindi c'è sempre un po' la possibilità di beccarsi qualcosa. Infatti io tuttora nei luoghi affollati non vado, a parte che non vado io di, come dire, di regola, poi ti tra caldo ti togli il respiro, capito? Non mi piace. Ho capito. Ti senti un po' strano, ti senti soffocare. Vabbè, io sono sceso perché dovevo trovare mia sorella, poi mia sorella si è sentita male, mi ha detto no, già non ci vengo, ero già a Porto Torres, però ero fuori città, capito, però il parcheggio l'ho trovato fuori, quindi ho dovuto camminare un bel po', mi ho fatto tipo come da Sassari a Cagliari, una era a ovest e l'altra era a est, immaginati, cioè all'entrata di Porto Torres ho trovato il parcheggio, dall'entrata di Porto Torres ho dovuto scendere sino a piazza, sino a giù. Poi sono andato a trovare Antonio Bombolo e a Luca che stavano lavorando chiamo rosticceria ambulante. Ah, tipo panini, roba del genere. È buono, buono. E Luca arrostiva degli spiedini di pecora, erano anche buoni. Arrostiva questi spiedini e invece Antonio doveva fare solo la notte e fare il custode, dai. Caspita, spiedini di pecora, mamma mia, mi sta venendo la febbre, mi sta venendo. Me li ha fatti gustare, Luca, erano buoni, perché a fare la fila non faceva, me li avrei comprati, ma c'era una fila esorbitante, hanno venduto a gogo in quel chiosco, hanno venduto un bel, erano uno, due, tre persone che lavoravano a rotta di cose. Sì, infatti ti fai d'oro, quando ci sono queste manifestazioni, basta che dai roba da mangiare buona, o diversa, cioè non il solito panino col wurstel o la salsiccia, quella è una cosa già più allettante, capito? Ma chi era un CB? Tutti i CB erano oppure altra gente? No, non erano tutti i CB. Era Luca e basta, e Bombo, che doveva fare solo la guardia di notte. Capito? Doveva fare solo il controllo di notte, come lo fa anche in Piazza d'Italia, per le cose che ci sono, capito? Fare la guardia notte. Cava. E vabbè. E quindi è andato un po' così. Degli amici, poi mi hanno telefonato che c'era la partita del Cagliari, che non se la perdevano, che qua che là, e ho detto mi auguro che il Cagliari vinca, perché se perde ti è perso la serata e anche la partita. E via. No vabbè, piuttosto che la partita anch'io sarei andato a vedere roba dal vivo. No, ma questo qui è fissato, no, Igeri, lui dice il Cagliari per lui, il sangue è suo. Il sangue nostro sarebbe la Torres, il Cagliari è il nemico. No, lui è proprio per il Cagliari, è sempre stato così, sempre Cagliari. Se giocava a Torres e Cagliari ti fava il Cagliari, nessuno è perfetto. Ho detto, vabbè, molto di volte, io ci scendo lo stesso, non mi segrego in casa per la partita, ma a tennare. Poi sono sceso giù, ho telefonato mia sorella, che abita lì, ed eravamo già d'accordo che dovevamo andare, invece si è sentita male, a vomiti, eccetera, e stava malissimo, e non è voluta venire, capito? Quindi io ero da solo e ho ascoltato un po' di canzoni, poi me ne sono andato al chiosco dove c'era Luca e Antonio, e ho fatto una chiacchierata con loro e poi mi sono andato. Vediamo se Natalino è già a tavola. Si stanno strafogando, secondo me si stanno già strafogando gli gnocchetti al sugo, al ragù. Ah, non parli a bocca piena? Ti faccio parlare con Muro. Ehi, ho chiesto, state già mangiando? Adesso stiamo iniziando. Comunque, Benedici, se ti serve quella cosa, farti un salto. Non ho capito, quella cosa non ho capito. Ho detto, se ti serve quella cosa, se non ce l'hai, vieni che te la do io. Ehi, dopo guardo, tanto noi mangiamo anche tardi, Ok, allora Natalì, appetito a tutti, buon appetito. Grazie altrettanto quando lo farete, anche a Gianni se mi sta ascoltando. Ehi, Natalì, qua che ti ho mandato le mie preparative. Però mi è tutto avviato, devo mettere la pasta, aggiungato tutto. Adesso quando arriva Marco, mio figlio, metto la pasta e mangiamo. Io il sugo l'ho fatto, però ho fatto il sugo con il tonno ed è un bel buono, ero da molto che non ne facevo. Ho fatto il sugo e gli ho messo una scatola di tonno dentro e l'ho fatto col tonno. Buono anche quello. Certe volte sai come lo facciamo noi, c'era un'amica di mamma e lo faceva così, però niente sugo, cioè è una pasta in bianco. Allora, tonno, uovo sodo, rosmarino e un filo d'olio, un po' d'olio, no? E quella mi piaceva da matti, senza sugo, non era in rosso, era in bianco. Sì, si può fare tanti buoni. Però io questo sugo qua lo facevo quando ero ragazzo, ero da molto che non lo facevo, ero ancora sposino quando le ultime volte lo facevo, non c'avevo manco figli. E poi non l'ho più fatto, capito? Ah, su, mi è venuto in mente e lo voglio fare assaggiare a Marco che viene qua a pranzo. Ok, questi gatti, guarda schianto, questi gatti vedrai, apro il forno e mi sbatto dentro. E mangiateli, sono buoni. Prima o poi me. Poi ho dovuto arrangiare in camera mia perché questo mangime che gli dai, che bene poi non li fa, questo mangime glielo dai, che ne so, di notte, ieri notte è gatto, il giorno dopo se non l'hanno mangiato c'ha un odore di morto, boh. Cioè non è roba sana, in realtà bisognerebbe fare anche con i gatti quello che fai tu, cioè dargli il pollo cotto, la carne, roba fresca cotta al momento, senza troppo sale, senza olio, senza niente, semplice, molto semplice, e quella è una dieta, se uno se li vuole veramente bene all'animale gli dà roba fresca, non questo cibo in scatola che è praticamente come mangio io, tutta roba in scatola, è roba mummificata, come dire, tutta con conservanti, magari anche coloranti, boh. No Marco, io sono contrario a queste cose di scatola. Sì, al gatto io gli ho sempre dato Gourmet Gold, mangiava solo quello, costava una barca di soldi, 85 grammi. E poi gli davo qualche cosa di crocchette, qualche cosina di pollo, ma proprio mangiava solo crocchette e Gourmet Gold. Se tu gli davi un altro mangime di scatola non le mangiamo. Anche quello abbiamo provato, sì. Io guarda, gli alterno un po' di roba di Lidl cucita, un po' di Radames, che Radames è di Eurospin, poi c'è quell'altra marca di Lidl, poi un po' il Prestige, un po' Whiskas Franzetti, però li faccio alternati, Allora se fosse per loro mangerebbero solo, come hai detto tu, Gourmet Gold, Whiskas Franzetti, tutta roba costosa, però così andiamo in fallimento, è come essere quattro persone qua in famiglia, capito? Non due, quattro persone, e quindi loro si devono adeguare e mangiare un po', però è sempre roba in scatola, cioè la roba, come fai tu al cane, ci vuole il pollo fresco, la carne fresca, ma anche con qualche ortaggio eccetera, purché però sia roba naturale. Pollo, non è vuole, il pollo lo mangia ma lo fa diarrea, deve mangiare solo carne di cavallo e basta, non può mangiare altro, se no mi dà diarrea. Vabbè, io dico pollo, ma nel senso carne fresca, capito? Carne vera, no? Carne mummificata, messa in barattolo. Ok, anche perché poi il gatto è contento, quando gli dai, che ne so, ti stia arrossendo una fettina, che sia di vitello, che sia di maiale, che sia quello che è, e il gatto devi vedere come apprezza, a quattro ganasce se lo mangia. Il mio manco pesce mangiava, cosa strana che i gatti lo mangiano, lo mangiava manco pesce, invece il Tyson l'orata la mangia, se gli dai di rassavira te la scatta, con la zappa la scatta. L'orata invece le piace, ti piace l'orata, i gabbeloni, se li dici gli altri. E io, per esempio, una delle due gatte mangia quasi sempre solo croccantini. Croccantini, cioè le piace la roba asciutta, secca. Croccantini, croccantini, se gli dai altra roba, anche di prima scelta, anche roba buona, non ne mangia, si lecca appena il sughetto ma poi la lascia, e purtroppo lì se gli dai il pollo fresco non lo vuole, se gli dai la fettina tutta tagliuzzata non ne vuole, e così è proprio croccantinomane, capito? Ma voi li avete presi tutti e due da quel gattino di Porto Torres? No, solo una. Allora Flo è stata la prima, la più giovane, era stata abbandonata dove hai detto tu, dietro il nautico in alto, non mi ricordo il nome della via, per fortuna l'avevano abbandonata da poco e lei si nascondeva sopra le palme, perché con i gatti di quella colonia non andava d'accordo perché era abituata a stare in casa, e in più quei gatti avevano tutti la clamidia e li prendeva gli occhi anche, no? Il gatto li prende gli occhi, e rischiavano di contagiarla. Per fortuna noi l'abbiamo presa in tempo e salvata, diciamo, dalla strada. E indovina perché l'hanno lasciata la gatta, l'hanno abbandonata? Perché era incinta, capito? E lì naturalmente noi non potevamo farci carico dei cuccioli, e quindi l'abbiamo dovuta fare abortire e sterilizzarla anche per evitare sorprese future, però almeno l'abbiamo tenuta con noi, le vogliamo bene e tutto. E lì, è strano. No, non strano, molti se ne fregano, il gatto incinta, fuori, lo sbattono fuori, è comodo così. Ma, quello è l'angolo di bene gli animali. Comunque quella è Piazza Petrarca, Marco, scrivitelo, Piazza Petrarca. Piazza Petrarca, non largo, no, piazza, è considerata piazza, ok. Poi lì c'era una signora che portava da mangiare i gatti, signora Paola, mi pare si chiamasse Paola. Allora lei sapeva il gatto, sapeva come si chiamava il gatto, e cioè Flo, sapeva da quanto tempo era lì, però no, chi l'avesse abbandonata non si sapeva. Che strano, abbiamo pensato anche che fosse sua addirittura, e che per non averla in casa con i gattini l'abbia mollata lì. E come sapeva il nome se non era il suo? Come faceva a sapere il nome, scusa? Sì, poi io, siccome con i commenti si sono andato un po' pesante, io ho detto, ma bisognerebbe denunciare quelli che l'hanno abbandonata la gatta, non va bene così. E lì era, così. E dice, però sapeva il nome, sapeva da quanto c'era, vabbè che lei stava lì tutti i giorni a portarla da mangiare, però se sapeva il nome, sapeva anche che l'ha abbandonata, magari era pure sua, te l'ho detto. Se capace che aveva rimorso e andava a dare da mangiare, capito? E poi invece Flo, Puffa, che poi si chiamava Viola, quella più robusta, no, grassona la chiamo io, però ha il pelo lungo quella. Quella praticante abitava via Gavino Matta, angolo viale Mameli, però questa usciva sempre da casa, riusciva a sgattaiolare e andava in giro a cercare cibo, perché è una mangiona, sta sempre pensando al cibo, e veniva sotto casa a chiedere da mangiare, e mamma come sempre si faceva brindolare. Era bella anche questa gatta a capello lungo, e mamma se la voleva adottare, no? E un giorno siamo riusciti a catturarla, e poco era svelta, mi di riflessi, non riuscivo a fregarla. Poi a un certo punto, siamo riusciti a portarla qua. Poi abbiamo saputo che era una signora, appunto, che abitava dove ti ho detto, no? Via Gavino Matta, eccetera. E dice che ha deciso di regalarcela, visto che noi eravamo così bravi. Sì, ce l'ha regalata perché la gatta era incinta, anche lì per sbarazzarsene ce l'ha regalata. Se non fosse stata incinta non ce l'avrei lasciata, capito? Sei incinta, l'hai trovata. Sì, fai.